Dopo di ciò, Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Giobbe prese la parola e disse: «Perisca il giorno nel quale sono nato, e la notte che ha detto è stato concepito un uomo. Che quel giorno sia tenebre, che da lassù Dio non ne abbia cura, non brilli sopra di lui la luce. Che lo rivendichino tenebre e ombra funerea, che si posi sopra di lui una nube, le eclissi lo rendano spaventoso. Quella notte se la possegga il buio, essa non si aggiunga ai giorni dell'anno e non entri nel computo dei mesi. Sì, quella notte sia infeconda e non vi penetri l'allegrezza. La maledicano quelli che imprecano all'oceano, coloro che sono esperti nel risvegliare Leviatan. Si oscurino le stelle della sua aurora, attenda la luce e non venga e non veda i guizzi dell'aurora, perché essa non chiuse per me il varco della matrice e non sottrasse ai miei occhi tanta miseria. Perché non sono morto sin dal seno materno e non sono spirato appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi accolsero e perché due mammelle per allattarmi? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e godrei il riposo. Insieme ai re e ai governanti della terra che si sono costruiti mausolei, o insieme ai nobili che possiedono oro o riempiono di argento i loro palazzi. O perché non sono stato come un aborto interrato, come i bimbi che non hanno visto la luce? Laggiù i malvagi cessano di agitarsi e là riposano gli sfiniti di forze. I prigionieri stanno tranquilli insieme a loro, senza udire più la voce dell'aguzzino. Laggiù piccoli e grandi si confondono e lo schiavo è libero da suo padrone. Perché dar la luce ad un infelice e la vita agli amareggiati nell'animo, a coloro che attendono la morte che non viene e si affannano a ricercarla più di un tesoro, che godono andando verso il tumulo ed esultano perché trovano una tomba, a un uomo il cui cammino è nascosto e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Così come mio alimento vengono i sospiri e i miei gemiti sgorgano come acqua, perché ciò che io temo mi incoglie e ciò che mi spaventa mi sopraggiunge. Non ho tranquillità, non ho pace, non ho posa, mi assale il tormento.